Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E c'è davvero di che essere frizzanti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché cioè, ogni minuto succede qualcosa di nuovo per il nostro paese, non guardiamo giù per il mondo, basta davvero il nostro paese. C'è una notizia di primissimo piano che tra poco vi dirò, comunque lo sapete, questo è il momento nostro, mio e vostro, per ritornare sulle notizie della settimana, anche quelle che escono pochi istanti prima di entrare in trasmissione, di entrare qui in diretta. Quindi vi dico da subito il numero per commentare le notizie della settimana, per dare liberamente le vostre opinioni, che è 800 24 00 24, numero verde quindi non solo gratuito ma anche ecologico, perché così evitate di disperdere energie, tempo e opinioni, idee, insomma, in giro per l'ambiente. Invece le convogliate direttamente qui e Non ci sono più le mezze stagioni fino alle 15 o poco prima, quindi spremete i neuroni se volete intervenire in trasmissione. Tra pochissimo vi presenterò l'opinionista estemporaneo di oggi. Però come condensare le tantissime cose successe questa settimana? Evitiamo magari la crisi, anche quello è un argomento grossissimo, e beh, è sempre in primissimo piano. Però vogliamo dire che questa è stata davvero la settimana delle sentenze. No, ieri la sentenza su Berlusconi, condannato a 4 anni per frode fiscale col processo dei diritti Mediaset, e che diventano, con l'indulto diventa 1 anno, e poi diversi milioni da pagare allo Stato, insomma, per danni da evasione fiscale. Poi la sentenza sulla commissione grandi rischi, 6 anni a 7 esperti che fanno parte di questa commissione grandi rischi per non aver dato le informazioni corrette sul terremoto dell'Aquila, con tutti i morti che poi ci sono stati. È stata anche questa una sentenza molto controversa. Quindi anche su questa, che idee vi siete fatte, che riflessioni avete fatto su questa sentenza? Molte opinioni sono arrivate per esempio sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, dove vi ricordo che potete sempre naturalmente commentare con molta libertà. E poi anche ieri sera la sentenza sul delitto di Melania Rea, sarebbe stato il marito Salvatore Parolisi, stato condannato quindi all'ergastolo, e anche gli è stata levata la patria potestà. Gli avvocati hanno detto impugneremo questa sentenza, eccetera eccetera. Insomma, quindi diciamo moltissima carne al fuoco, e poi naturalmente le primarie del PD che continuano ad animare fortemente l'agone politica. Ma poi la novità è anche che Berlusconi ha fatto questo passo indietro fino a qualche ora fa e ha lanciato anche le primarie del PDL, quindi comincia anche qui ad essere apprezzata questa iniziativa del PD, che tante tensioni ha creato, ma evidentemente dà anche un po' di energia, diciamo, al dibattito politico e anche alla voglia di partecipazione delle persone, no? Voi per esempio nel PDL chi vedreste come candidati? E poi naturalmente, a parte le notizie di questa settimana, c'è anche un'altra notizia. Tutte le settimane c'è qualcosa che ci dice che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Questa settimana non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere sono un granché. Uno studio svedese, voi sapete che dicono questo cibo fa bene, poi dopo 3 anni esce una cosa terribile, fa venire il fegato grosso così, distrugge i polmoni eccetera eccetera. Adesso voi sapete, mi viene fuori il mio femminismo incontenibile, che fino praticamente a ieri dicevano che le donne sono multitasking, cioè sono capaci nello stesso momento di fare più cose, di stare attente se hanno un figlio, intanto di lavorare, scrivere l'ultimo progetto che stanno facendo, intanto pensano anche alla lista della spesa, con un altro piede stirano, la capacità di tenere presente più cose contemporaneamente. No, questo è sempre stato una certezza negli ultimi anni, 1000 studi che confermano che questa è una qualità femminile. No, viene fuori uno studio svedese, quindi possiamo dire, per la provenienza geografica un po' al di fuori di ogni sospetto, questo studio svedese dice no, il vero re del multitasking è l'uomo, è lui che sa fare più cose contemporaneamente meglio delle donne. Quindi, ma anche questa cosa ci dice che non ci sono più le mezze stagioni. Ma a questo punto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, mentre vi ricordo il numero verde 800 24 00 24, vi presento l'opinionista estemporanea di oggi. Anna Maria Bernardini De Pace. Ciao Roberta. Cara Anna Maria. Buongiorno a tutti. Venuta dritta dritta in studio, qui sapete, la più famosa matrimonialista d'Italia. Avremo modo anche di parlare di cose molto inerenti al suo mestiere, Anna Maria. Tu sai, io non so come sei venuta tu, sai che io sono venuta con una Vespa qui. Che bello, no, io avrei dovuto trovare... No, perché è bello? No, è carino andare in Vespa. No, sono venuta con una Vespa, nel senso che appena salita in macchina si è appoggiata una Vespa sul parabrezza. E ho detto, che ci fai qui tutta quella sua pellicetta? Che ci fai qui questa stagione così, no? Ho detto, vabbè, adesso parto in quarta e questa va via. Sono arrivata qua sotto, radio, ho attraversato praticamente tutta Milano e era ancora lì. Dico, adesso che scendo qua nel sotterraneo del garage della radio, questa poverina, che farà qua dentro? Cioè, volevo quasi scuoterla prima di uscire. E invece è rimasta lì, forse voleva un po' di caldo, e quindi sono venuta con una Vespa. Oggi è una cosa particolare questa stagione. Beh, molto carina, quasi un soffio di primavera. Diciamo che la primavera mi pare un po' alle spalle. Senti, posso arrabbiarmi subito con questo studio svedese che gli uomini sono tutti multitasking? Ma non è possibile, sì. Ma è qualcuno che l'ha fatto per provocare. Vero, gli uomini sono bravissimi a fare 3-4 cose contemporaneamente, no, anzi una sola cosa contemporaneamente, avere 3-4 relazioni, in quello sono assolutamente insuperabili. Per il resto fanno una cosa alla volta, concentrata su quella che fanno, non sempre bene, e la fanno però poi alla fine. Però quella cosa lì, insomma, la sanno fare bene, sì, più vite quella... parallele, diciamo, è sì. Vero, posso dire, non per esperienza mia diretta, per fortuna, ma insomma, io per esperienza mia diretta, tutti i giorni vedo situazioni di questo genere. E infatti poi ne parleremo, poi hai scritto anche questo libro, pubblicato al Corriere della Sera, Dall'amore all'amore, il diritto di famiglia, raccontato da Anna Maria Bernardini De Paci, come è cambiato, per fortuna, per molti versi, negli ultimi anni. Avremo modo di tornarci, però... C'è una domanda che ti devo fare, Anna Maria. E tu ci credevi? A che cosa? All'amore? Ma l'amore è vero, questa, diciamo, è una cosa molto intima, mi piacerebbe parlarne. Ma all'amore ci credo ancora. No, ma tu ci credevi che Berlusconi sarebbe ritirato? Dalla politica, non sarebbe candidato? Io sono convinta che fino alla fine si ritira. Adesso ha trovato lo spunto per dire devo rimanere in campo perché devo combattere l'ingiustizia, e quindi forse nella situazione di abbrivio della frenata c'è ancora qualche passo che devo fare. Primo titolo infatti del Corriere della Sera online in questo momento: la marcia indietro di Berlusconi obbligato a restare in campo. L'hanno detto in vari, che non ci credono, persino Bossi, suo alleato storico di sempre, aveva detto no, c'ha troppi processi in mezzo, secondo me non si ritirerà. Non era stato solo Prodi, che vabbè, uno dice è di parte Prodi, anche Bossi stesso, proprio 3 giorni fa aveva detto sì, non ci credo. È una marcia indietro da parcheggio. Lui dice devo riformare il pianeta giustizia. Non credo che ci riesca, è troppo difficile, non so come possa fare una cosa di... È vero che la giustizia in questo momento soffre qualche disagio e ha qualche problematica, evidentemente non tutti i giudici sono all'altezza di svolgere un compito e una responsabilità grandissimi, ma come non tutti gli avvocati, non tutti i medici. A mio parere siamo in un periodo storico in cui non prevale affatto il merito ma l'incompetenza, e questo è l'effetto di troppo buonismo, troppo garantismo, questo troppo anche perdonismo, moltissimo in politica, ne anche in politica, molto, non ne... molto in politica. Infatti, se vogliamo, il sentimento prevalente della popolazione è la sfiducia. C'è la sfiducia verso gli ospedali, la sfiducia verso la politica, non ne parliamo, c'è proprio una presa di distanza, la sfiducia verso le professioni, la sfiducia verso il compagno, la compagna di vita. C'è anche sfiducia verso questo governo, ci sono manifestazioni di piazza, il No dei Monti, no, eccetera. Migliaia a Roma, leggo adesso, città blindata, allerta, infiltrati, eccetera, eccetera. Che ne pensi tu del governo Monti? Adesso viene molto contestata questa legge di stabilità, alcuni punti in particolare. Sì, mi sembrano un po' radical chic, sai come cosa si intende? Il governo dei tecnici, che in realtà il governo politico, dei tecnici, diciamo. Mi sembra un po' radical chic, cioè lontano dalla vita reale, molto oppressivo, molto dal punto di vista proprio delle soluzioni che ha trovato tutte soluzioni punitive, oppressive. È vero quello che dicono tutti, si colpiscono i soliti noti sono quelli che si sono dichiarati da tempo rispetto rispettando un dovere fondamentale della società, cioè che è quello di dichiarare i propri redditi. Ma diciamo soprattutto quelli che non hanno dei redditi fantasmagorici. No, ma tutti, quelli che ce li hanno e quelli che non, quelli che li hanno dichiarati, come li hanno dichiarati, in qualsiasi modo li hanno dichiarati, sono quelli tartassati. Direi che forse il problema più grosso, diciamo la cosa fatta peggio da questo governo, sia la questione degli esodati, che ancora è lì sospesa. Adesso si parlava di un prelievo del 3% su gli stipendi oltre i 150.000 euro, però adesso si sta tornando indietro. Anche Bersani non era molto d'accordo. So tra l'altro che tu hai dichiarato in questi giorni quanto guadagni, Anna Maria. Dunque, così, io ho dichiarato, tenetevi forte, 800 24 00 24. C'è stato un equivoco col giornalista, perché io ho fatto... Quale giornalista? Una battuta, un giornalista di Grazia. Ho fatto una battuta provocatoria, perché mi ha chiesto quanto guadagna. Io ho detto non so quanto guadagno, perché il guadagno è la differenza tra il fatturato e il costo del lavoro. Essendo tu una libera professionista. Io sono una libera professionista, ho uno studio grande con 21 persone che lavorano, eccetera. Allora gli ho detto non lo so quanto guadagno. Dopo che ho fatturato, ho detto fatturo circa 2 milioni lordi, devo togliere all'anno, devo togliere le spese, devo togliere quello che do allo Stato, che ogni anno si fa alle mie spalle un bel appartamentino, adesso c'è un grattacielo, e poi quello che mi resta mi basta solo per comprarmi le sementi per il mio giardino. Non ci crede nessuno, però no. ti assicuro che con le ultime tasse, le ultime tartassate, adesso questo 3%. Perché Anna Maria coltiva, sapete quegli alberi nella storia di Pinocchio sotto i quali poi venivano le monete d'oro? E quello chiaro che coltivare quei quegli un'idea. Alberi, domani vado a vedere, ci vado subito stasera a vedere se è così. Comunque, da questa cosa è uscito invece un articolo che dice guadagno 2 milioni lordi e li spendo tutti in sementi, che mi è sembrata una coltivatrice diretta in realtà. Ecco, questa è la vera vocazione di Anna Maria Bernardini De Pace. E io vorrei chiederti, prima parliamo poi del tuo libro, ma ti lascio con la domanda in sospeso e anche le ascoltatrici e gli ascoltatori, di chi per esempio adesso, a parte Berlusconi, dice mi ricandido, i poveri esponenti del PDL che subito si erano esposti dicendo sì, io voglio candidarmi alle primarie, no? Questa cosa, questo gioco delle primarie subito diciamo eccitato anche loro, quindi ci sono Santanchè e poi Galan, Crosetto, se non sbaglio, Formigoni ci sta pensando, è Alfano. Adesso tu mi dirai chi, ma non adesso, chi potrebbe essere secondo te un buon candidato. Lo stesso e le ascoltatrici e ascoltatori, pensateci, 800 24 00 24. Invece io volevo chiederti, vedevo proprio oggi su Repubblica un articolo di Maria Novella De Luca che dice addio al divorzio breve, altra promessa tradita, cioè dice questo disegno di legge è lì tra mille altri che ogni tanto spuntano fuori e poi ricadono, diciamo, nelle tenebre, nell'oscurità. Che ne dico pensi subito di questa cosa? Sì. Io faccio parte della Lega del divorzio breve, anche se la chiamerei separazione breve, perché se non riescono a far passare neanche questa situazione, figurati il divorzio come lo intendo io. Io intendo il divorzio come alternativa immediata alla separazione. I laici, cioè, devono due poter che si scegliere. Vogliono lasciare, dici, non si separano, divorziano immediatamente. Forzano. Tu pensa a quelli che si sono sposati con rito civile, che sono laici, che non hanno tutte le problematiche che posso anche condividere per chi ha la fede religiosa, quindi l'idea di sciogliere il vincolo, di attentare a un sacramento. Allora queste che sono persone civili hanno il diritto di sposarsi e divorziare quando vogliono, perché sono laiche. Quale sarebbe, diciamo, un po' il concetto di fondo di chi invece sostiene che il divorzio, la separazione debbano avere tutto questo percorso abbastanza lungo, che le coppie ci possono ripensare? Ci sono due concetti. Uno è quello del valore religioso, quindi del valore come sacramento che non si può infrangere, del vincolo coniugale, che è un sacramento come il battesimo, la comunione. Però mi pare sia costantemente infranto. Però i molto religiosi no. Comunque la separazione deve essere consentita, perché non si può vivere insieme quando non c'è più affettività o addirittura c'è magari violenza, insomma c'è conflitto, eccetera. E l'altro è quelli con la solita mentalità buonista, perdonista, parrocchiale che abbiamo in Italia, ma può essere che ci ripensano, tornano insieme, poveri bambini, questo quest'altro, quindi questo periodo di riflessione tra la separazione e il divorzio, per cui siamo partiti. Che secondo la tua esperienza serve o non serve? Non serve, io ho fatto ho avuto oltre 20.000 casi, saranno tornati insieme tre persone, capisci che è un'incidenza percentuale straordinaria, tre coppie voglio dire, non tre persone, peraltro due delle quali dopo cinque anni si sono riseparate. Sì, perché... è tutto lavoro per Anna Maria Berardi De Pace, questo, no, diciamo. Scusa, devo dire una cosa importantissima a chi non la sa: quelli che tornano insieme in questi tre anni, sì, combinano dei guai, perché tornano insieme, nel momento in cui tornano insieme la separazione si annulla, per cui quando poi vogliono separarsi bisogna ripartire da zero anni. Quindi si paga l'avvocato invece di pagarlo due volte, la separazione e il divorzio, si paga tre volte, due separazioni e un divorzio. Anna Maria Bernardini De Pace, che ha appena scritto questo libro dell'amore, dall'amore all'amore, su come è cambiato il diritto di famiglia, che c'entra un po' anche con quello che si diceva prima, no? Sì, io ho voluto raccontare il diritto di famiglia perché la gente non si rende conto che ogni giorno nell'ambito della propria vita di coppia familiare fa gesti giuridici, cioè fa gesti che hanno un valore giuridico. Tutte le persone sono tendenzialmente portate a pensare ai propri diritti e nessuno pensa ai doveri, alle responsabilità. Allora è nato un anno fa circa nel forum della famiglia quest'idea di dire alle persone: basta imparare a cucinare, che siete tutti bravi, la televisione si fanno solo ricette di cucina. Io la ancora radio non ho imparato, le uova alla cocca le faccio benissimo. Vede che non vedi la televisione perché sei obbligato a imparare, ecco. Sui giornali c'è questo, ho detto invece diamo le ricette per vivere bene, per sapere quello che stai facendo, ecco perché ho fatto questo, che spero che sia un talismano della felicità, dall'amore all'amore. Invece, a proposito dall'amore all'amore, dall'amore all'omicidio invece, che ne pensi? Sai che siamo arrivati a 101 donne uccise dall'inizio dell'anno, che siamo perfettamente nella media, una ogni due giorni, no? L'ultima, questa ragazza di 17 anni a Palermo, per un pelo, proprio perché si è messa lei a fare lo scudo col suo corpo in mezzo, non è stata uccisa anche la sorella dall'ex fidanzato, e ieri c'è stata la sentenza su Parolisi. Che pensi di tutto questo? Penso che anche qui bisogna fare una riflessione, i genitori, la scuola, anche i mezzi mediatici devono imparare a insegnare ai giovani e ai ragazzi come comportarsi, perché c'è ai maschi in particolare, maschi, perché sono loro che non accettano la separazione. Allora, i maschi non accettano perché non sono abituati a ragionare di sentimenti e a capire, fin da piccoli coi bambini bisogna spiegare cos'è la rabbia, bisogna capire quando c'è la frustrazione e far capire loro come uscire dalla frustrazione, il senso di gratitudine, il rispetto degli altri, i diritti degli altri. Le ragazze sono diventate forti dei diritti che hanno acquistato in questi anni, sono diventate troppo spensierate nell'agire, non si rendono conto, accettano gesti di sopraffazione che non necessariamente sono le botte, ma possono essere anche le pretese, le prepotenze, senza rendersi conto di che cosa vanno, che cosa possono incontrare con una persona che agisce con prepotenza e arroganza, e quindi non si staccano subito. Anche se è vero, Anna Maria, che a volte magari si staccano, metti che ci mettono un mese, due mesi, tre mesi, sì, e questi li vanno a cercare. Sì, ma si staccano dopo che si è approfondita la relazione. Bisogna imparare a distinguere, non è necessario per forza fare una coppia, per forza avere qualcuno che ti accompagni. Molte ragazze, molte donne, anche molte mie godane, hanno l'idea che non si possano fare le cose da soli, per cui vogliono la coppia a tutti i costi. È sbagliata, la coppia la devi formare quando trovi la persona davvero, scegli, quando vuoi una persona che pensi che possa essere il padre dei tuoi figli, la madre dei tuoi figli, che pensi che possa esserti compagna, alleata. Invece questa educazione sessuale che ha portato i ragazzi a essere totalmente pronti alla sessualità e a non guardare che cosa c'è dietro. L'attrazione erotica prevale sulla consapevolezza dei sentimenti e dei valori di chi invece ti sta di fronte. Prima notizia di oggi, dicevamo appunto la marcia indietro di Berlusconi, obbligato, dice sono obbligato a restare in campo dopo la sentenza di ieri. Vorrei cominciare a sentire il numero verde 800 24 00 24, Mirella da Siena. Sì, ciao, buongiorno. Io volevo porre una domanda di questo tipo. Sentiamo. Oggi molte coppie che decidono comunque di andare in separazione, già hanno fatto un percorso, iniziato comunque un percorso legale, vivono questa situazione di stare separati in casa, che non mi sembra porti spesso più attenzioni, attriti e cose, quindi alla luce anche di questi fatti di violenze sulle donne, chiedevo se la legge è sempre stata così, se questa situazione invece si potrebbe cambiare dal momento in cui si decide una separazione secondo me si dovrebbe separarsi. Sì. Beh, ma lì credo, Mirella, che sia libero arbitrio, nel senso che se una coppia decide, pur nella separazione, alla fine di stare insieme in casa, non è che ci sia una legge che dice no, non dovete stare in casa o dovete stare in casa, no? Penso che lì sia proprio una decisione delle coppie. In certi casi funziona, devo dire, sembrano delle coppie un po' strambe, però riescono così a condurre un certo menage, avere una loro unità, magari ci sono anche dei figli. Qualcuno così molto raramente trova un equilibrio anche in quel modo, però sta... Anna Maria, le sì. persone, no? Grazie, le persone Mirella. Devono decidere, ma devono avere delle accortezze, perché se vivono in casa insieme comunque devono rispettare le condizioni previste nel verbale di separazione consensuale. Mm. Quindi l'assegno deve essere dato non in mano, cioè i soldi in mano, ma con un bonifico, altrimenti, come dicevo prima, la separazione si annulla. E lo stesso il rispetto delle visite delle dei bambini ci deve essere, perché uno dei due un domani può fare un dispetto e dire non ci siamo, sì è vero che ci siamo separati, ma poi ci siamo riconciliati, non ha preteso l'assegno da me, non gli quindi ho mai dato i figli, bisogna andarci coi piedi di piombo, bisogna andarsi cose, nero su bianco. Purtroppo, le cose, purtroppo molti fanno questa scelta per problemi economici, c'è una casa sola. Senti, prima di riandare sulla politica, sulle primarie del PDL, le primarie del PD eccetera, volevo chiederti, hai visto questa notizia invece dell'assoluzione questa settimana di una donna di Roma che perseguitata per anni al marito, botte, violenze eccetera eccetera, a un certo punto mentre erano lì a tavola, che lui era andato lì a dirle adesso tu togli quella denuncia che mi hai fatto, lei ne aveva varie volte, le aveva queste ritirate queste denunce, l'ultima volta non ce l'ha fatta più, lui le ha imposto di ritirarla, lei a un certo punto lui ha cominciato a minacciarla, a picchiarla, lei lo ha ammazzato a coltellate, ha 4 figli tra l'altro questa donna, 4 o 5 figli che però sono dalla sua parte, è stata assolta perché giudice legittima difesa. Ha detto legittima difesa. Cosa doveva fare dopo anni? Ha fatto benissimo. No, nel senso, poveraccia, avrebbe evitato volentieri. Si è trovata in una situazione disperata, ma piuttosto che morire lei, di fronte a persone di questo genere, bisogna sapersi difendere. Un'altra cosa che io suggerisco sempre alle ragazze giovani è quello di uscire con lo spray al peperoncino. Urticante. È un modo di... poi, non essere mai da sole, essere in due, non tornare tardi... Non brutta bere questa sostanze, cosa però della libertà so. Femminile così limitata, sì, no? Ma in realtà anche quella maschile, perché poi anche agli uomini capita di essere uccisi a tradimento per altri motivi, per dispetto, va bene, non da una donna magari. Lei questa dopo che era perseguitata ha fatto bene, e sai quante donne io vedo nella mia professione che denunciano e ritirano, vero, perché sono in questo modo rendono più forte la violenza, e prima o poi le donne che fanno così, no? Le donne vanno ci rimettono loro la vita, bisogna essere rigorosi. Allora, sentirei, poi c'è Nadia Zammitti, sì, che mi dice centinaia di telefonate già stanno arrivando al numero verde 800 24 00 24, ma c'è tempo per Alfonso da Roma. Pronto? Alfonso, sì, eri un po' incerto. Sì, sì, sì. Pronto. Voglio fare un intervento sulla commissione Grandi Rischi dell'Aquila, sì. La sentenza relativa della commissione Grandi Rischi, che per lo più, salvo eccezioni, è stata criticata. Ora, volevo dire, e mi sembra corretto che si dica, che ancora non è uscito il dispositivo della sentenza. Sì, quindi le motivazioni. Sarebbe corretto aspettare da parte di tutti questi, anche personaggi che sono intervenuti contro la sentenza, aspettare le motivazioni. Io veramente in gran parte le conosco perché sono aquilano, purtroppo, quindi i danni sono stati enormi, e quindi so quanto sia giusto quello che il giudice Billi ha pronunciato brevemente in occasione del giorno in cui la sentenza è stata solo annunciata, però vediamo prima le motivazioni, leggiamo. Mi pare saggio, Alfonso, questa cosa rimane, mi pare saggia, perché effettivamente appunto di ogni sentenza poi bisogna aspettare qualche giorno e leggere le motivazioni. Tra l'altro sulla pagina Facebook ci sono stati, di Non ci sono più le mezze stagioni, tanti interventi su questo argomento: Ciro, Corrado, Massimo, Nerio, Davide, Rosanna, Alberto, William, Enrica, Dora, eccetera eccetera. Ho letto tutti i loro pareri, poi se volete andare sulla pagina per leggere direttamente. È vero che tra l'altro tutti hanno un po' detto, questa è stata la critica, non si può prevedere un terremoto, questo è chiaro, in nessuna parte del mondo, però dalle piccole anticipazioni che sono uscite, in realtà il motivo di questa condanna sarebbe che c'è stata una grande superficialità, nel senso che non sono state informate le persone sul reale rischio che tutte queste scosse poteva rappresentare. E c'è di mezzo anche Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, che parrebbe aver detto: facciamo un po' questa riunione più mediatica che non altro, giusto per tranquillizzare, per una cosa fatta un po' velocemente, dopo tre giorni mi pare è successo quello che è successo. Ce l'abbiamo, no? Questa intercettazione, è stata un'intercettazione che riguarda Bertolaso mentre parla con Enzo Boschi dell'Istituto di Vulcanologia. Sentiamo, era proprio pochi giorni prima. Pronto? Ciao Guido. Ah, dimmi Guido. Allora, ci sono un po' di ritardi che Berlusconi purtroppo qua sta tenendo dolce, però te lo mando fra poco, quindi aspettate un pochettino. Non c'è problema. Ascoltami, ti devo dire un'altra cosa. Mi hanno chiesto, ci saranno repliche scorte come quella di ieri? Ho detto, guardate signori, è inutile che mi fate queste domande, perché noi ci rifacciamo a quello che decide la comunità scientifica, quella vera. Oggi pomeriggio ci sarà una riunione all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia della Grandi Rischi. Quindi io ho detto loro che la riunione di oggi è finalizzata a questo, quindi è ovvio che la verità, la vera motivazione non la si dice. Quindi alla fine poi fate un vostro comunicato stampa, no? Con le solite cose che potete dire su questo argomento, delle possibili repliche, e non si parla della vera ragione della riunione, va bene? Sì, ma scusa Guido, probabilmente c'è un po' di confusione dovuta a me, sicuramente. Perché? La vera scopo della riunione è questa, cioè capire come si sta evolvendo la zona, non è che abbiamo in mente tragedie o altro. Va bene, ma tu quando avete finito mi chiami te e mi dici come quello che mi siete detti, eh? Sì, ma stai tranquillo, poi c'è anche Michele. Però ti posso assicurare che il nostro è un atteggiamento estremamente cooperativo, non vogliamo... Ma lo so bene, ma ti sto dicendo, poi... Comunque la conferenza stampa non la faccio più, ho deciso. No, fate un comunicato stampa. Un comunicato stampa che prima sottoponiamo alla conferenza. Va bene, ok, grazie. Ok, stai tranquillo Guido, ti abbraccio, ciao. Complimenti, ciao. Grazie. Insomma, la qualità è quella che è, però è un'intercettazione che poi è passata al vaglio dei periti, degli inquirenti, eccetera, eccetera. Si sente a un certo punto Guido Bertolaso che dice: la verità non si dice. Ecco, poi aspetteremo, come dice Alfonso, c'è ancora? C'è ancora in linea? Grazie comunque Alfonso. Ecco, aspettiamo le motivazioni. Tu che idea ti sei fatta intanto, Anna Maria? Beh, non ho capito neanche in questa intercettazione che abbiamo ascoltato. La verità della riunione non si dice. Qual era la verità della riunione? Qui non ce l'hanno detta, cioè, perché la sapevano tra di loro. Pare sì che fosse giusto, così era stata definita, io mi attengo alle cose che ho letto, un'operazione mediatica giusto per dare soddisfazione insomma alla questione. Quindi terremoto, non hanno approfondito volutamente. O per superficialità, io vorrei dire, poi non so se dolosamente, fatto sta che poi quello che è successo. Ritorniamo allora al discorso che facevo prima io, della competenza e del merito. Evidentemente nei posti di grande responsabilità ci sono delle persone che non sono arrivate a quei posti per competenza e per merito, ma per altre vie. E allora ecco che va tutto, la Commissione Grandi Rischi è così, e la Protezione Civile è così, e gli ospedali, i tribunali, tutte queste cose. Allora bisogna tornare al rigore, bisogna tornare a pensare prima di tutto che studiare, impegnarsi, assumersi responsabilità non è da tutti. Ci sono delle persone che sono bravissime con le mani, che fanno delle cose meravigliose. Perché si devono chiudere in uno studio? Tanto non è che lavorando a una professione intellettuale oggi si può guadagnare di più che un artigiano. Cambiato, anzi, a mio parere gli artigiani sono carissimi. Io peraltro adoro i lavori degli artigiani, conosco tantissimi artigiani della pietra, della lana, delle perle, di qualsiasi cosa, e sono anche sempre più rari artisti e sono rarissimi. Perché le persone non cercano i loro talenti invece di cercare la laurea? Comunque insomma, come diceva Alfonso, su questa cosa aspetteremo, anch'io curiosa di sentire le motivazioni. Vorrei sentire Viviana da Lodi. Sì, Viviana. Grazie per questa opportunità, ringrazio la signora Giordano, la conduttrice, e mi permetta un piccolo inciso, ringrazio caramente di essere presente oggi l'avvocato Bernardini De Pace, che ho conosciuto in una sua relazione presso l'OIEO, ormai sono passati un po' di anni, la quale mi ha regalato la sua relazione. Io non so se si ricorderà, ma è stato un giorno bellissimo. Mi ricordo, me l'ha signora. Regalata, guardi. Io poi dopo glielo chiedo se è vero, Viviana, se no, Maria è vero, è vero. Me l'ha proprio data allo IEO e si ricorderà molto bene, c'era tutto il giorno personalità. Io ho avuto la fortuna di incontrare l'avvocato. E dopo questo momento nostalgico, Viviana, è un po' sentimentale. Sì, veramente. Guarda, piacerebbe rincontrarla di nuovo. Comunque io volevo farle una domanda. Sì. Ecco, avvocato, senta, ma quando ci sono i casi, diciamo, di truffaldineria, non so se è giusto chiamarla così, da parte dell'ex coniuge, e che in sede di divorzio, ormai a cose fatte, intesta la casa coniugale, che dovrebbe essere delle figlie, per anche ravvedimento operoso precedenti, diciamo come ravvedimento proprio operoso, in testa alla madre, no? E quindi un raggiro, un'altra persona. Signora, per quello che bisogna pensarci prima, quando si ottiene l'assegnazione della casa coniugale, bisogna farlo sapere trascrivendo il verbale all'ufficio del registro, così non può fare cambiamenti. Poi bisogna cercare al momento della separazione di ottenere tutte le garanzie per il futuro direttamente dal coniuge, non accettare di chiudere a tarallucci e vino, perché quando si chiude a tarallucci e vino c'è sempre un retropensiero che prima o poi si manifesta con un imbroglio o una truffaldineria, come la chiama carinamente lei, che si vede che è buona e generosa. Viviana, ti ringrazio e vedo, arrivano telefonate, grazie anche a Rosa al centralino, un po' tutte dirette a te, Anna Maria. Sulle notizie della settimana arriva Anna Maria Adesso, De Pace, si parla solo di separazione. Potranno andare sul sito Dall'amore all'amore. Mia nipote, che si chiama Cecilia Bernardini De Pace, ha fatto anche la pagina Facebook, Twitter, eccetera. Sul sito Dall'amore all'amore, da lunedì ci sarà un forum dove tutte queste domande avranno delle risposte. Ci sarà tutto un sistema di interattività con gli ascoltatori. Quindi lettori. Una cosa di servizio anche questa, per chi fosse particolarmente interessato, insomma, all'argomento. Però mi dicono sì che abbiamo il collegamento prima di perderlo con satellitare. Va bene. Riflessioni da Marte. Diciamolo, a volte un po' di distanza, con un minimo di distacco, le cose si vedono magari con più chiarezza, e questa settimana qua su da Marte con il mio telescopio bisogna dire che si è vista la classe politica italica con più obiettività. Via, non è vero che in Parlamento non riescono a trovare mai accordi e mediazioni su nulla e litigano su tutto. Vabbè, qualche scaramuccia, via. Ma finalmente, con un grande senso di responsabilità, i partiti, tranne qualche rara eccezione, hanno trovato l'armonia. E su cosa l'hanno trovata i partiti questa bucolica armonia? L'hanno trovata, espressa nella sua unitaria pienezza dalla commissione bicamerale, sul decreto legge che doveva tagliare i costi della politica di regioni ed enti locali, dopo la scoperta, ricordate, delle fameliche scorribande di Batman e altri innumerevoli supereroi italioti. Quel decreto che dovrebbe sforbiciare stipendi, vitalizi, fondi e gruppi consiliari, un decreto che dopo il Salva Italia si potrebbe chiamare salva ostriche, poiché è parsa diffusa abitudine di tutti gli indebiti appropriatori di soldi pubblici quella di fagocitare, a parte diamanti, SUV, case e vacanze da sogno, di fagocitare dosi massicce di ostriche, col concreto rischio di provocare l'estinzione dei gustosi molluschi. Ebbene, i partiti hanno detto un secco no al decreto salva ostriche. Non se può, se può no. Soprattutto nella parte che riguarda il controllo preventivo dei conti da parte della Corte dei Conti. Per quello che si chiama così, Corte dei Conti. Inciderebbe gravemente, dicono, sull'autonomia di regioni ed enti locali. Insomma, come dire che la Corte dei Conti non ficchi il naso. E poi si sa che tanti politici, consiglieri, assessori, anche in questi giorni, hanno chiaramente espresso la loro preoccupazione, nel caso di tagli a stipendi e vitalizi, di onorare mutui di case da centinaia di migliaia di euro e altre piccole necessità di questo tipo. E poi come fanno? Viva la faccia, insomma. E per mantenere sempre imperturbabili e toniche queste bronze facce da competizione, arriva un trattamento rivoluzionario. Arriva direttamente dalla Thailandia e sbarca per il momento a San Francisco, ma presto potrebbe giungere su suolo italico. Il primo salone di bellezza che promette una pelle da neonato senza alcuna procedura invasiva, niente iniezioni di botox o acidi vari, niente tecniche chirurgiche, niente anestesie, solamente un sacco di sberle. È vero, è proprio un trattamento antirughe a base di schiaffi che arriva da Bangkok. Ogni trattamento completo, spiega la prima esperta che ha aperto un negozio proprio nel cuore di San Francisco, rassoda la pelle, cancella le rughe per almeno un anno e, pensate, fa emergere la bellezza interiore dei clienti. E ce l'avranno pure con la loro bellezza interiore anche i politici, no? Magari avranno bisogno di più schiaffi, ma ce la si può fare, sono i risultati quelli che contano, no? Per quanto riguarda il listino prezzi, ci sono sedute da 20 minuti a $350 e un pacchetto speciale di 4 sedute per $1000. Che dite, se le potranno permettere tanti politici italiani? Se li volete aiutare, cominciate a fare una colletta. Sei come schiaffo che fa male, schiaffo da calabiare, schiaffo che fa godere per me. E ritorniamo subito coi piedi per terra. Ora vedo arrivare continue telefonate che riguardano le questioni di separazione. Proprio hai stappato, diciamo, uno scrigno, una roba enorme, insomma, visto che sono, leggevo proprio in questi giorni, un picco di divorzi, di separazione in Italia, incredibili. Però ti voglio chiedere, visto che eravamo rimasti in sospeso con questa domanda, qual è il tuo candidato ideale a questo punto ipotetiche primarie del PDL? Perché se Berlusconi oggi annuncia no, voglio ritornare in campo dopo la sentenza di ieri, ma diciamo tra Alfano, Crosetto, Giorgia Meloni, Santanchè, Galan, insomma, tu chi vedresti? Allora direi che le femministe potrebbero votare la Santanchè, i maschilisti Crosetto. Sì, due schieramenti. Sì, secondo me. Perché secondo te Crosetto è maschilista? Beh, un uomo, a mio parere, dei valori forti e duri, non so poi. Di quelli in senso molto tradizionalisti. Un po' rigido più che rigoroso. Galan mi sembra invece proprio il contrario. Ecco, eh? Esattamente. Ecco, diciamo, i più equilibrati Galan, i nostalgici Berlusconi e i futuristi la Meloni. Caspita, capacità di previsione. Anna Maria Bernardini di Pace, io pensavo non fosse possibile a parte i terremoti, per carità. Ma leggevo proprio questo studio italo-americano, è stato pubblicato ieri, la premonizione esiste davvero. Vediamo, cioè, subito dopo le primarie, dopo il 16 dicembre, ci troviamo e vediamo, se esiste questa distinzione come l'ho fatta sempre io. Sempre tenendo presente poi del 21 dicembre, io non lo so, tu dove sarai in caso il 21 dicembre? Poi, no, ma guarda che io sono sempre in ufficio, non ci crede nessuno, ma sicuro? Io vivo nel mio studio adesso. Anche il 21 dicembre? Il 21 dicembre non è ancora periodo di Natale. Che ti acchiappano per i capelli. Sentiamo Roberto da Cuneo. Roberto. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno Roberto. Buongiorno avvocato, volevo fare un intervento in merito al fenomeno della violenza sulle donne. Sì. Ecco, la premessa ovvia è che ogni violenza è da condannare e non esiste una violenza che abbia una giustificazione, questo è il caposaldo di ogni civiltà a mio avviso, ma credo anche dall'altro che le analisi sul fenomeno violenza siano in molti casi un po' stereotipate o perlomeno superficiali. Mi spiego. L'uomo è un violento, la donna è la vittima, anche se succede spesso questo. Diciamo che ogni due giorni c'è questa conferma, poi non so se una risurrezione di queste donne dopo, non mi sembra. No. Ma le spiego il mio ragionamento. Sì. Questo è sicuramente vero perché, come dimostra la realtà, le vittime sono quasi sempre donne. Ma questo non fa di ogni uomo un violento una vittima. Nessuno ha detto questo. Perché esiste una violenza più sottile che andrebbe forse analizzata con maggiore attenzione ed evidenziata, anche perché è un oltraggio nei confronti delle donne che soffrono realmente la violenza, ovvero sia la violenza psicologica di atteggiamento che molte donne hanno all'interno di una coppia, ad esempio, e che tanto per dire si esplicita in questo: faccio quello che voglio, intanto anche se chiamiamo i carabinieri, la polizia, danno subito ragione a me. Roberto, scusami se ti interrompo, mi viene immediatamente un ragionamento, no? Allora, hai premesso che nessuna violenza è giustificabile, quindi questo femminicidio che avviene ogni due giorni in Italia ed è trattato come un fenomeno fisiologico, tu ovviamente lo condanni, anche se c'è un'indifferenza generale, diciamo, su questa cosa. No, assolutamente, dopo, da condannare, certo, dopodiché io dico, se un uomo ritiene che la moglie sia insopportabile, violenta, che si chiamano i carabinieri, danno ragione a lei, si separano. Cioè, che cosa c'è di più semplice ormai in Italia e nei paesi occidentali di separarsi? Cioè, sì, ti dico subito qual è il problema. Il problema esiste da un duplice lato. Da un lato, questo non porterà sicuramente a una maturazione dei rapporti di coppia. A chi se ne importa? Meno, se ha scelto male, bisogna avere il coraggio di riconoscere i propri errori. Se si è scelto male la propria compagna, può succedere il anche poi compagno, dopo, magari l'hai scelto bene, poi i rapporti negli anni possono che deteriorarsi. Si deteriori per qualsiasi motivo. A stare insieme. Si separa, non è che c'è un diritto alla felicità. No. Però c'è un diritto anche a vivere rispettati. Quando non si è rispettati, quando la propria dignità è aggredita dall'altro, ci si separa e ci si prepara bene alla separazione. Non bisogna separarsi nel momento di massimo sconvolgimento e di litigio, bisogna organizzarsi per tempo. Si dice, non si va più d'accordo, Roberto, basta, sei una donna insopportabile così come un uomo, solo che in molti casi... No, è questo, il discorso che esiste spesso una prole che va di mezzo a questo e che è utilizzata come arma di ricatto, è qui che viene il mio discorso. Lo so, cioè, Roberto, ecco perché bisogna prepararsi prima e fare i papà dal primo giorno in cui nascono i bambini, così dopo non c'è discussione davanti al giudice. Grazie Roberto. Elisabetta da Bergamo, sinteticamente, che cominciamo a correre. Ecco, signore, buongiorno. Molto grazie brevemente, grazie. Voi, veramente, guardi, io non sono tanto capace di, però sono sicura che mi capirete. Sentiamo, brevemente. La signora, l'ultima cosa che avete detto, appunto, che quando c'è una separazione, dove non ci sono litigi, io conosco un uomo giovane di 47 anni che si è appena separato senza litigi con la moglie in modo democratico, così, che però porta così a mano i soldi quando all'inizio del mese, quando deve dare i soldi per i figli. Non è legale, allora? No, non è che non è legale, è sbagliato, perché se non c'è la prova del pagamento può un domani subire un precetto se la moglie magari gli vuole fare uno scherzetto. Grazie Elisabetta, siamo proprio di corsa e direi di andare subito a questo appuntamento immancabile col nostro Don Severino da Potenza. Caro Don Severino, qual è la tua notizia della settimana? Ciao Roberta, ciao. No, la notizia di questa settimana, ecco, credo che gli ascoltatori l'hanno sentita: il 24 ottobre scorso il senatore Richard Murdoch ha infatti detto... Americano, che, sì. Americano, sì, esatto, repubblicano, ha detto che se da uno stupro viene fuori una gravidanza è qualcosa voluto da Dio. Ecco, onestamente davanti a questa affermazione io taccio, perché se no diventerei abbastanza cattivo, però vorrei porre all'opinione pubblica, a chi ascolta, solo questa domanda: la Chiesa e i vertici della Chiesa davanti a un'affermazione di tale assurdità e violenza contro Dio cosa ha detto? Silenzio assoluto. Questo perché? Perché non ci nascondiamo dietro un dito, ma è una storia che inizia da Adamo ed Eva. Purtroppo Eva viene raccontato che è la causa di ogni male, e quindi per questo ancora oggi deve patire, deve essere condannato. Allora io invito le donne che sono in ascolto a fare una semplice cosa: se vanno a messa stasera o domani, vadano dai loro parroci e domandano che cosa ne pensano di questa affermazione. Semplicemente questo, può essere una forma, no, per le donne di contestazione forte, semplice e serena. Grazie Don Severino, e questo è Don Severino. E adesso invece devo correre ulteriormente, perché mi è arrivata fra le varie mail questa mail di Roberto Ghisellini a proposito di quello che ha detto in questi giorni la ministra Fornero. Ogni tanto se ne esce con le sue, diciamo, espressioni un po' particolari. Ha detto: ciusi, i giovani non devono essere ciusi, schizzinosi, devono prendere il primo lavoro che capita. Ci sono varie ricerche che dimostrano che i giovani in realtà oggi si accontentano di stipendi più bassi, di lavori che non erano nelle loro aspirazioni. Per esempio Roberto scrive che in Sardegna le ha provate tutte, tanti non gli hanno dato neanche lo stipendio dopo per periodi di prova, eccetera, eccetera. Alla fine si trasferisce in... Poi si firma però Matteo e si trasferisce in Olanda. Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, molto sinteticamente, che ne pensi di questo termine schizzinoso, Ciusi, eccetera, eccetera, molto brevemente? Sì, no, è stato scelto appunto Ciusi e c'erano tanti sinonimi tra i quali che si potevano usare, italiani, schizzinoso, schifiltoso, incontentabile, esigente, ma sì, il 22 ottobre è stato scelto invece Ciusi, dando luogo a molte critiche, a ironie e persino a una canzoncina di Crozza. Allora, commento, se vogliamo essere cattivi, ma non lo siamo, ci chiediamo perché usare proprio quella parola che fa un po' di ostentazione snobistica da parte di chi tra l'altro si occupa dei problemi drammatici. Vero. Come quelli del lavoro, e tanto più da parte della ministra, che giustamente è molto attenta ai fatti linguistici, tanto da respingere l'uso dell'articolo davanti al suo cognome, la Fornero. Quindi, sì. Ecco, noi siamo, tant'è vero che credo io sicuramente, ma anche Roberta mai direbbe la Fornero, insomma, o nome o cognome o la ministra. E comunque la ministra, ma in ogni modo, questi sono formalismi. Se invece vogliamo essere buoni, fino a qui eravamo stati più cattivi, che cosa possiamo dire? Ma così amabilmente, che grazie a Fornero, sì, all'improvviso, nel giro di una giornata, milioni di italiani, proprio quelli che vengono rimproverati di non conoscere bene le lingue straniere, soprattutto l'inglese, hanno imparato una nuova parola inglese. Grazie, Ciusi. Valeria Della Valle, tutto è utile alla fine. Chiedo scusa a Stefano da Reggio Emilia, credo che non riusciremo a sentirci. Dimmi solo qual era la tua notizia, Stefano, ci risentiamo settimana prossima, non ce la facciamo. La mia notizia era questa: e se Berlusconi fosse davvero colpevole del reato per cui è stato condannato? Ah, per ora è stato condannato in primo grado, poi naturalmente ricorreranno. Grazie Stefano che sei stato così sintetico. Grazie Anna Maria Bernardin De Pace. Grazie a te, Roberta. Ascoltatrici e ascoltatori, ricordatevi della pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni e anche di riascoltare la trasmissione, se volete, da lunedì su radio24.it. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.